Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Caldiron Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Quella finta, interpretata da Paola Cortellesi. L'accusano di essere uno strumento nelle mani di Tremonti. Cosa risponde? Non sono programmata a tal fine. Beh, quindi lei rivendica una sua autonomia. Certamente, ho autonomia di 7 ore all'aperto con le batterie alcaline. Prego, niente. Pronunciare il nome completo. Maria Stella Gelmini Pimer. Come Gelmini Pimer? Cos'è, un frullatore? Non le permetto di provocare. Gelmini Pimer non solo frulla, ma trita, sminuzza, centrifuga e soprattutto taglia. Quella vera. Si tratta di un provvedimento piccolo che, ribadisco, non vuole essere e non è la riforma dell'università, ma semplicemente una serie di misure urgenti sul diritto allo studio, sulla valorizzazione del merito, sul ricambio generazionale dentro le università e anche sulla riqualificazione della spesa. E sta parlando del decreto legge sull'università varato giovedì il vero ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini. Questi i punti principali. Capitolo finanziamenti e concorsi. Da oggi gli atenei che hanno superato il tetto del 90% nel rapporto fra spese di personale e fondo di finanziamento ordinario non potranno bandire concorsi per docenti o personale amministrativo. Arrivano invece 500 milioni di euro, cioè circa il 5% del fondo del finanziamento ordinario, per le università virtuose, quelle con la produzione scientifica migliore, l'organizzazione e la didattica migliori. Ulteriori premi economici andranno alle università che ridurranno sedi distaccate inutili e i corsi di laurea in eccesso rispetto alle reali esigenze formative degli studenti e alle richieste del mondo del lavoro. Il decreto non prevede un blocco dei concorsi tout court. Si faranno quelli già banditi. Cambia però, da subito, il meccanismo delle commissioni di valutazione. 4 membri della commissione saranno sorteggiati tra una lista di 12 professori eletti in nome di una maggiore trasparenza. Per il turnover, che negli atenei passa dal 20 al 50%, il governo ha deciso di stanziare 150 milioni di euro, incentivi alle università per favorire il pensionamento e l'assunzione di giovani docenti. Si parla di 3.000 posti in più. Le università potranno anche decidere di fare entrare solo giovani ricercatori, arrivando ad assumere 2 ricercatori per ogni docente in pensione. In ogni caso, secondo il decreto, almeno il 60% delle assunzioni deve essere destinato ai nuovi ricercatori e le università che rinunceranno a trattenere i docenti oltre i 70 anni di età potranno raddoppiare il numero dei posti per ricercatori. I concorsi per posti da ricercatore già banditi saranno esclusi dal turnover. Altri interventi. Dal 2009 verranno garantite, con 135 milioni di euro, le borse di studio a 180.000 ragazzi. 65 milioni, invece, saranno destinati alla costruzione di nuove strutture universitarie, per un totale di 1.700 nuovi posti letto. L'avete sentito dunque, assunzioni bloccate per gli atenei che abbiano sfondato il tetto del 90% nel rapporto fra spese di personale e fondo di finanziamento ordinario. Sono 7 al momento le università con queste caratteristiche più o meno: l'Orientale di Napoli, Firenze, Trieste, L'Aquila, Pisa, Bari e Cassino. Quella messa peggio è l'Orientale di Napoli. Ci siamo fatti una chiacchierata con il rettore Lida Viganoni. Essendo noi un ateneo un po' particolare, avendo noi una serie di insegnamenti spesso unici e anche, come dire, molto ricchi, noi, come dire, abbiamo una esigenza di personale e di copertura di questi insegnamenti che ovviamente ci hanno abbiamo inteso conservare, e per conservare tutto ciò abbiamo dovuto inevitabilmente sfondare il tetto del 90%, ma certo, se ho una scopertura in organico di un insegnamento di civiltà e cultura dell'Estremo Oriente o dell'Indi, come già si è scoperto, o del rumeno, come già si è scoperto, o del neogreco, come pure si è scoperto e per il momento non l'ho reintegrato, noi abbiamo ritenuto che, come dire, non fosse il caso di scoprirli. Quindi, da un lato c'è la necessità per un'università come la sua di conservare degli insegnamenti che magari avranno anche pochi studenti, io non lo so, avranno anche 10 studenti, però è vero che pochi studenti, ce l'ha solo lei nella sua università e quindi forse la cultura. Siamo pochi in Italia, certamente sì. Quindi la cultura a volte è anche di nicchia, diciamo, però è giusto che esista. Sì. Detto questo, però, c'è anche la necessità di contenerli questi costi. Allora, ridurre, chiudere questi corsi forse non è la soluzione giusta. Come si fa adesso? Questa è una bella domanda. Diminuire le progressioni di carriera? Ma io non potrò, rispetto a se stiamo parlando del decreto per l'università, io non potrò fare concorsi per i prossimi anni. Guardandosi indietro, forse si poteva contenere i costi contenendo le progressioni di carriera? Forse in minima parte sì, si poteva. Sì, certamente, forse questo si poteva fare. Quindi nessun mea culpa? Se l'Università di Napoli si guarda, l'Università Orientale di Napoli si guarda indietro, c'è qualche contenimento della spesa che poteva essere fatto e non è stato fatto? Perché adesso la penalizzazione che arriva è pesante. Detto così, sì, è probabile, certamente si poteva, probabilmente, evidentemente si poteva provare a contenere di più la spesa, questo probabilmente. Dove? Sì, forse nei concorsi che sono stati chiamati. Gli studenti sono tornati a manifestare in piazza a Roma e molte altre città. Con chi prendersela a questo punto? Perché è vero che il governo taglia, ma taglia solo laddove ci sono anche sfondamenti di tetti di spesa. Allora, lei non sente che questa protesta è un po' anche contro i rettori come lei, che non è riuscita a contenere le spese? No, non lo sento così. Questa dunque è la posizione del rettore dell'Orientale di Napoli, Lida Viganoni, che naturalmente rivendica la correttezza dell'operato di un ateneo che comunque ha insegnamenti davvero molto particolari. Il commento di Gianni Trovati del Sole 24 Ore, che peraltro oggi è in edicola un instant book con tutte le novità sulla scuola dell'ultimo periodo, quelle su cui si sta molto discutendo e quelle contro cui molti studenti e professori stanno manifestando, fra cui appunto il decreto sull'università di questa settimana, che comunque contiene anche novità molto importanti. Con il decreto legge varato giovedì, il governo riprova a mettere un po' di meritocrazia nelle regole sull'università, un tentativo avviato anni fa da Letizia Moratti e proseguito nella scorsa legislatura da Fabio Mussi, ma con risultati modesti. Ora Maria Stella Gelmini ripesca le idee dei suoi predecessori, ma sembra farlo in maniera più diretta e, almeno sulla carta, efficace. Lo fa in due modi. Con le sanzioni blocca i concorsi nelle università che spendono troppo per il personale, creando un disincentivo reale a sforare una legge vecchia di 11 anni, ma finora quasi ignorata. E con i premi chiede di distribuire almeno 500 milioni di euro per incentivare i migliori, abbandonando i finanziamenti basati solo sulla serie storica. Rimangono i tagli al fondo statale, ma le linee guida, approvate giovedì dal governo, provano a dare agli atenei gli strumenti per risparmiare, tagliando i corsi inutili e la carriera automatica dei docenti. È una scommessa ancora tutta da vincere. Si sta come d'autunno, sulle cattedre, gli insegnanti. Guglielmo la cognata. È un pensiero arrivatoci da un nostro ascoltatore che ringraziamo. Invece adesso parliamo di cinema, perché la scuola sembra piacere molto e sempre di più al cinema. Ecco qua un film in uscita questo fine settimana. Mi chiamo Mario Landi, sono il vostro nuovo insegnante di italiano. Raccontatemi qualcosa, quello che vi piace, quello che non vi piace. Ma parlate di quello che vi interessa. Il ritratto spietato di tre spregiudicate adolescenti bene che colmano il vuoto delle loro esistenze con alcol, droga, bullismo. Prima vietato ai minori di 18 anni, poi ai minori di 14, un gioco da ragazze parla degli eccessi di un gruppo di studentesse. Il regista, esordiente di 26 anni, è Matteo Rovere, figlio di un insegnante. Mia madre è un insegnante in una scuola di periferia e fa un po' anche, sai, il recupero della dispersione scolastica, quindi quella incinta a 16 anni, quello che è stato arrestato a Roma, quindi insomma non chissà dove. Lei è stata una dei primi sponsor di questa sceneggiatura, perché mi ha sempre detto: guarda, questi sono personaggi che forse ai genitori non fa tanto comodo vedere, però è indubbio che esistono, e se l'ha detto insomma mia madre, che è un insegnante di scuola da oltre 30 anni, penso di poterle credere. Basta con i giochi da ragazzine, ora facciamo sul serio. Ma a chi vuole parlare Matteo con questo film? Ma io ho pensato, sono sincero, molto agli adolescenti, cioè adolescenti che si vedono raccontati e poi in qualche modo prendono le distanze da tanti modelli negativi, ma anche ai genitori, cioè ho pensato a genitori che vedono il film facendo una riflessione su che società stanno costruendo per questi figli, no? E cosa sta succedendo intorno a loro. Devo dire che una cosa che ho notato approfondendo molto la generazione che oggi ha tra i 15 e i 17 anni è la velocità. Questi ragazzi litigano, poi fanno subito pace, fanno queste cose grandiose, poi se ne dimenticano il giorno dopo. Io penso che oggi noi non ci stiamo accorgendo che è una società di ragazzi che in qualche modo hanno difficoltà a avere un'educazione alle emozioni tale da poter poi filtrare e relativizzare magari questi input che ricevono. Forse i genitori, più che censurare il film, dovrebbero chiedersi: censuriamo il cellulare in classe o censuriamo altri comportamenti sui quali io, insomma, non voglio sindacare perché non è il mio lavoro, però quantomeno mi fanno interrogare. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Vi ricordo ancora l'Instant Book su tutte le novità riguardanti la scuola. Oggi in edicola con Il Sole 24 Ore, noi invece ci risentiamo sabato, come sempre, alle 12.45.